Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Anche questa mattina abbiamo dovuto velocemente riflettere sul fatto che forse, piuttosto che imporre un argomento di discussione al di fuori dell'attualità, della realtà ai nostri ascoltatori, vale la pena così, senza rete, basandosi sulla sensazione, sull'impressione comune, sul vociare tra la gente, che sono comunque sintomatici di un sentire generale, di riflettere su quello che in questo momento sta accadendo. Qual è la grande notizia su cui il paese si sta crogiolando, esaltando, vendicando e allo stesso tempo rivendicando da alcuni giorni? È l'eclissi leghista, chiamiamola così. Lo faccio al di là di ogni presa di posizione politica, di ogni lettura, di ogni moralismo di bassa lega, scusatemi il ripetere il termine. Chi vive a Roma in questi giorni non sente altro che la frase: hai voglia di dire Roma ladrona, forza dire Roma ladrona, anche loro ci sono cascati. Usciamo un attimo, cerchiamo di elevarsi dalla contingenza, dagli elementi più legati a una vicenda politica che in totale itinere ancora questa mattina. Si parla delle probabili dimissioni del vicepresidente del Senato, Rosy Mauro, la persona che, come qualcuno questa mattina notava, in assenza del presidente del Senato e del presidente della Repubblica, sarebbe la prima carica dello Stato. Ora, soltanto oggi ci accorgiamo che c'è qualche problema nel definire ciò che tradizionalmente noi intendiamo per rappresentativo di illustri carichi dello Stato e personaggi che la cronaca mastica, rimastica e risputa in maniera indefinibile. Quello che mi piacerebbe riflettere questa mattina è che, bene o male, c'era fino a qualche giorno fa, anche seppur virtuale, anche seppur a livello indicativo, a livello ideale, una sorta di antitesi nel paese, tra una parte del paese che si ergeva come moralizzatrice e possibile sottolineatrice di tutti i limiti e le caratteristiche negative che fanno di noi un paese eterogeneo, divertente, interessante, pieno di limiti e pieno di risorse, e il coincidere esattamente in tutte queste figure, parcellizzazioni, aspetti negativi in quello che questi giorni stiamo vedendo sui giornali. Il fenomeno del nord che si ergeva rispetto al resto del paese come parte pulita del paese, parte sana, parte così legata e profondamente ispirata a sensi arcaici legati al territorio, legati alla sacralità del territorio, rituali, le sacre ampolle, le marce lungo il Po, tutta una liturgia fatta di simbolismi, di colori particolari e di richiami a ancestri guerrieri del quale nessuno più di noi pensa neppur lontanamente di riferirsi, in realtà è caduta in piccole cose, in vicende tutte naturalmente da verificare, tutte naturalmente da giudicare nei luoghi proposti al giudizio delle persone, che però non si può fare a meno di notare, legate alle più banali piccolezze di cui noi siamo abituati a considerare i nostri limiti maggiori. Cosa emerge? Emerge superstizione, emerge la morale familismo in cui la famiglia passa sopra a tutte le regole, a tutte le istituzioni. La famiglia gestisce anche la cosa pubblica e la gestisce come se fosse un affare di famiglia. Il cerchio magico, la superstizione, la magia, le maghe, le fattucchiere, le veggenti, le ispirate, i sensi profondi di fiducia nell'irrazionale. Il bamboccismo legato ai giovani rampolli a cui tutto si perdona e sui quali nessuno sottolinea poi gli aspetti grotteschi, gli aspetti infingardi, la necessità di attribuirsi comunque titoli di studio, come se fossero galloni comperati, come una volta si comperavano i titoli nobiliari, perché accrescevano prestigio alla persona, avere un blasone legato al proprio plebeo cognome. Oggi una laurea serve e quindi si compra all'estero, perché l'ignoranza, la incapacità, la poca volontà di approfondire, di studiare, di faticare per avere un'elaborazione più ampia dell'esistenza, può essere facilmente sostituita con qualcosa che si acquista, diventa un titolo comperato. E poi gli amori clandestini, gli amori palesi sotto gli occhi di tutti, gli amori che diventano delle frequentazioni professionali, gli amori di che nessuno parla, talmente nefasti e funesti da colpire quella che è l'integrità dei capi assoluti. Beh, 800240024, di questo vorrei parlare questa mattina. Abbiamo subito un ascoltatore, Paolo. Paolo, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Ecco, lei mi dà subito, io questa mattina voglio fare una trasmissione senza rete, non mi pongo limiti e non voglio esperti particolari, soltanto amici che carpiscono quello che è il sentire comune, che loro come catalizzatori riescono a elaborare dalla loro posizione individuale, quello che sta facendo lei. Non è una trasmissione di critica alla Lega, perché non ho mai parlato di politica e tantomeno mi interessa oggi, però di qualcosa che stiamo sentendo un po' tutti. Ci vediamo un'altra volta, riflessi in tutti i nostri limiti. E un'altra volta ci sentiamo bravi, belli, onesti e soprattutto riuscendo a codarci a quello che è il grande codazzo cronachistico, tutti a ridere sul trota. Ieri la rete era piena di immagini di Renzo Bossi fritto in una padella, trota fritta, trota lessa, trota bollita e via dicendo, e andando avanti fino al passo successivo in cui sarà qualcun altro che salirà all'onore delle cronache, tutti noi ci sentiremo diversi, perfetti, ideali, perché ogni volta ci diamo riflessi nei nostri limiti in qualcun altro, ci sentiamo meglio. Paolo, scusi, a lei la parola. Niente, volevo dirle, dottor Nicoletti, lei sa di dov'è la Rosi Mauro, dove è nata? Sì, è pugliese, penso. Ah, è pugliese, quindi è una pugliese che ha affossato la Lega, secondo me, perché adesso era l'ombra di Bossi. E che è riuscito, diciamo, a fregare anche lui. Non ho approfondito gli studi sull'esegesi leghista, sulla storia della Lega. In questo momento io aspetterei che tutte le vicende che hanno sentore comunque di reato siano giudicate nei luoghi preposti, se no facciamo il processo del popolo. In questo momento la signora Rosi Mauro è il vicepresidente del Senato, quindi però tale è una terrona che ha rovinato terrona. La Lega. Lei scusi, da Brescia. È un bresciano, quindi lei è un bresciano, si sente leso nella sua integrità bresciana e probabilmente nel suo ideale di purezza del nord da una signora che, venendo dal sud, ha secondo lei inquinato la purezza della Lega. Se non ci fossero state queste immissioni sudiste sarebbe splendidamente andata avanti nel suo cammino fatto di elmi cornuti, ampolle del Po e via dicendo. Scusi, non lo dico con polemica. Non è dimostrabile, però, insomma, la realtà è questa. Se non ci fossero state le influenze sudiste, secondo lei il grande sogno del Nord sarebbe andato avanti? Forse. Vabbè, forse. Il cosiddetto trota, che poi ho notato che è un riferimento ad antichissimi animali simbolici celtici, portatori di salute e di prosperità, secondo lei però non ha che abbia ascendenza anche lui di tipo terrone, come dice lei, eppure anche al centro di una vicenda abbastanza complicata. Capito, ma questo Bossi qui, Junior, è un povero pesso, scusi, è un povero ragazzo, non è un poveraccio. Ha avuto la fortuna di avere un padre così bravo. Però lei guardi, lei mi... Però la Rosi Bindi è una signora. No, La Rosi Mauro è una signora. Quindi adesso usciamo un attimo. Vabbè, Paolo, prendo per buona, questo è il suo parere. Non ho elementi per. Può essere che magari facendo una profonda analisi statistica sulle provenienze regionali e dei vari componenti della Lega potrebbe avere ragione lei. Laddove è venuto un meridionale c'è stata una caduta di tenuta etica. Non voglio discutere, non entro in merito. Però mi interessa il suo punto di vista. Secondo lei il nostro paese è fatto di anime così diverse, legate dalla nascita, dall'origine biologica e genetica, per cui esiste un meglio che è laddove non ci siano influenze meridionali, è un peggio e laddove si manifesta un'influenza meridionale? Non lo dico con provocazione, prendo per buona qualunque sia la sua convinzione. È un paese che non è mai stato governato e che da 50 anni e governato malissimo, colpa della Democrazia Cristiana e dei comunisti. Ma i 50 anni precedenti come era governato? Sì, dai comunisti e dai democristiani. No, 50 anni precedenti a questi non c'erano comunisti democristiani. No, vabbè, sono 50 anni precedenti. Ma lei quale sarebbe la sua soluzione? No, perché anche lei è... La mia soluzione è che governare l'Italia è impossibile. E quindi? Quindi bisogna trovare un qualche sistema. Per esempio, tirar via la possibilità ai politici di gestire soldi pubblici. Andare e diventare un politico significa mettersi a servizio dei cittadini. E vede, questa secondo me è una cosa molto saggia. Anch'io, se potessi scegliere, ma io vivo nel mondo dell'utopia più di lei. Non è lo Stato che deve fare le strade, eccetera. Cioè, lo Stato deve solo decidere quali strade fare. Poi il resto deve farlo qualcun altro, perché abbiamo visto che più del 60% della spesa italiana, quello che si chiama il prodotto interno lordo, viene gestito dalla politica, e questo è incredibile, cioè è impossibile. Anche lì però ci diciamo sempre le stesse cose. Lo so, però non la cambiamo mai. Quindi Paolo, sai, abbiamo avuto tutti gli strumenti per cambiarla, se ancora siamo qui, evidentemente noi siamo fatti così, potrebbe essere questa una soluzione. Non vorrei trasformare delle letture profonde che meritano senz'altro strumenti un po' più elaborati in chiacchiere da bar. Però io da lei colgo una cosa sulla quale sono d'accordo. In realtà, se uno potesse scegliere, si svegliasse una mattina e ti fosse detto ho poteri illimitati, cosa voglio fare? La prima risposta sarebbe: vorremmo una classe politica quasi sacerdotale, come la immaginava Platone. Dei filosofi poverissimi, non hanno nulla, ma hanno il potere e hanno il carisma di poter governare. Questo sarebbe il sogno di tutti. Massimiliano. Sì, niente, buongiorno, sono prima di tutto a salutarla. In secondo luogo, come imprenditore, il mio più che altro era un commento così, aperto un po' a tutti quelli che sono imprenditori in questo momento e che probabilmente vedono le cose in maniera molto, molto offuscata, difficile. Ecco, più che altro era un commento positivo. Credo che comunque, a prescindere di queste situazioni che sono più umane che politiche per quanto riguarda la mia visione, cioè chiaramente lo spirito umano a volte viene messo a prova e quindi ha difficoltà nell'interpretare determinate situazioni come può essere quella che è successa appunto alla Cina. Ecco, posso fare una domanda? Secondo lei l'essere umano fa sì che laddove ci sia poi possibilità di gestione di soldi pubblici, l'aspetto umano poi alla fine ci porta a considerarli come qualcosa che in fondo fa parte del budget familiare? Non sto parlando in questo momento della vicenda leghista, ma in generale potrebbe accadere a un imprenditore, potrebbe accadere a chiunque gestisca del denaro non propriamente suo, ma che lui deve gestire. Ma in effetti io credo che comunque la cultura della famiglia italiana è sempre stata quella di insegnare a gestire il proprio denaro, o fondamentalmente di avere grande rispetto per il denaro che non è proprio. Credo che quello è un po' l'impronta che diamo tutti ai nostri figli, no? come italiani, io mi vedo come cultura italiana, non quella di portare a rubare, ecco. Cioè, credo che nella maggior parte noi italiani siamo abituati a questo, perlomeno quello che insegno ai miei figli, e credo che chiunque nella maggioranza degli italiani faccia questo per me. Ecco, allora però le faccio un'altra domanda. Questo è esattamente quello che veniva detto da Bossi nel momento più fulgido della sua presenza politica, la differenza rispetto agli altri. Noi siamo diversi, noi, i nostri figli sono diversi, però una volta dentro, bene o male, l'impressione sia che anche le migliori intenzioni e la miglior aderenza alla stirpe degli onesti, una volta a contatto con la merce maledetta del diavolo, alla fine fa quello che fanno gli altri. Non è questa l'impressione? Ma sì, ma a parte che parto da un presupposto che appunto bisogna creare una cultura anche di che cos'è esattamente il denaro, come dice lei. Non è la merce del diavolo, secondo me. Ma l'ho detto provocatorio, non è assolutamente la merce del diavolo. È il motivo per cui noi ci procuriamo la felicità, procuriamo una dignitosa vita ai nostri cari, professionalmente ci coltiviamo. Non esiste altra quantificazione del valore oggi che il prezzo che questo valore ha sul mercato, secondo me. No, in effetti. Comunque ribadisco che il contesto sia quello di creare anche una cultura politica su quello che è la gestione del denaro, che secondo me manca. Perché in effetti io, sentendo parlare anche chiacchiere da bar che si possono fare con amici, si ha l'idea che in effetti arrivare a quel posto si ha la possibilità di gestire come si vuole un po' la situazione. Non credo che sia così. O perlomeno manca la cultura di insegnare ai politici, specialmente ai ragazzi giovani che vedo che a volte chiedono il voto, il fatto di sapere come poi gestire la propria posizione quando si arriva. Forse la politica non dovrebbe essere un mestiere, non dovrebbe essere intesa come una maniera per svoltare la giornata, perché poi vede, tutte le volte che accade, poi accade per flussi che spesso hanno ragioni imperscrutabili, perché oggi si colpisce la Lega, domani si colpirà qualcun altro, però mi sembra più un fatto comune, tutte le volte che qualcuno è dentro, poi si porta dentro tutti, ci si porta dentro gli amanti, ci si porta dentro i poliziotti belli capelli che cantano culi nudi, ci si porta dentro le soubrette, ci si porta dentro le zie, le nonne, le nipoti. Mi sembra che il vero problema, la vera promiscuità in Italia è lo scambio delle mogli, ma non nel caso che si vada ai clubini per scambisti, nel caso che io, visto che ho una carica politica, assumo tua moglie, tu che hai lo stesso carica da un'altra parte assumi la mia. E lo scambio delle mogli o delle fidanzate, delle amanti, delle cognate, dei figli è uno degli esercizi più praticati, non si dice, ma vedo che ogni volta che qualcuno ci mette le mani da un punto di vista processuale o un magistrato apre un procedimento su questo, viene fuori immediatamente, ci si rinfaccia, tu zitto, non puoi dirmi niente a me perché hai provato a infilare tua moglie in quel concorso. Sì, in effetti, comunque, perché rientra sempre un po' nella nostra cultura, perché l'italiano perlomeno ha un diciamo così, un senso della famiglia così intenso che poi va a sfociare nel fatto di doverla aiutare per sempre. In effetti a volte io sento questi paragoni anche che fanno con per esempio le famiglie americane, dove i figli a 18 anni vengono assolutamente mandati via di casa, invece proprio in Italia si ha questa tendenza a che il figlio vada via di casa al momento che è completamente e totalmente organizzato. Quindi secondo lei, Massimo, in ogni famiglia italiana, anche del politico più specchiato come del più corrotto amministratore locale, c'è sempre una nonna, una zia, una vecchia che dice pensa ai figli, pensa alla moglie, occupati di quella povera donna, e questo senso così profondo e schiacciante di ricatto morale porta a situazioni che stiamo vedendo tutti questi giorni, che a me non conforta nemmeno vedere lo sdegno e la pubblica riprovazione di fronte a questi fenomeni, perché non è altro che un ribadire il fatto che siano drasticamente, endemicamente, visceralmente legati a ognuno di noi. Ma lei li riconosce o queste si presentano in qualche maniera? Ma certo, io sono stata a contatto con tanti personaggi. Anche personaggi famosi? Sì. Ultimamente poi quella di Michael Jackson, dopo una giornata che lui era scomparso, una mattina ero verso le 3 o le 4 del mattino, mi sono sentita svegliare, ho detto forse mio marito mi sta chiamando per qualcosa. Mi si è presentato lui e mi ha detto aiutami, io ho bisogno di una persona come te, io voglio parlare, io voglio diffondere il messaggio, tu mi devi aiutare. Mentre tutti si chiedevano come era morto, perché sì. 800 24 0024, stiamo semplicemente dando voce a quelle voci che cogliamo ogni giorno per strada in questi giorni, leggendo i giornali e riflettendo su quello che è il grande momento, l'ultima fase della cosiddetta Seconda Repubblica, che poi, come vedete, questo momento di catarsi nazionale fa riemergere alcuni elementi che conosciamo bene, che fanno parte di noi, anche quando si trovò in situazioni analoghe, uscirono fuori maghe, chiromanti, cartomanti, consiglieri occulti, avete sentito? Per quelli che mi stanno scrivendo in questo momento, specificandomi la genealogia di Trota Boss, dicendo che la moglie meridionale, saranno almeno 10 sms che mi dicono anche la mamma di Renzo Bossi è terrona, come se ci fossero, ma non è così esattamente, si stanno sbagliando, fanno delle confusioni, andando avanti così mi sembra che non si faccia altro che ribadire il fatto che noi siamo così, non ci si cambia, è diversa. Questa, avete sentito, è una sensitiva Adriana Sossi, che è ospite fissa di tutti i programmi misteriosofici legati agli aspetti segreti e sottile il nostro paese, sta parlando delle sue chiacchierate con l'anima inquieta di Michael Jackson. Beh, lei lavora alla regione Lombardia, è legata comunque all'entourage del Trota, e lei si sta facendo nomi, si è fatto nomi ultimamente, è un personaggio che qualcuno prende sul serio, che qualcuno considera sia una persona attendibile, una persona che parla con i morti, che è un esercizio che privatamente chiunque può fare, non ci trovo nulla di strano o di male, ognuno ha terapia di se stesso e della propria equazione esistenziale secondo i sistemi che ritiene più efficaci. Ma quanto può essere credibile, attendibile, cosa farà la regione Lombardia una signora che parla con lo spirito di Michael Jackson? Beppe Neri, buongiorno. Ecco, Beppe Neri, ricordo, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, ma sempre in veste di nostro illuminato e saggio amico. Una volta facemmo con te, Beppe, una trasmissione profetica, ma che potrebbe essere profetica oggi, come sarà profetica altri fra 50 anni, si sarà dato di ancora avere lucidità, sul familismo amorale. E trovi ribadito questo concetto in quello che sta accadendo questi giorni, soprattutto nell'atteggiamento moraleggiante di tutti gli italiani? Beh, l'atteggiamento moraleggiante degli italiani è uno degli sport più praticati, però la cosa interessante è che a suo tempo dicevamo che Banfield, questo studioso inglese, aveva fotografato queste cose negli anni 50 facendo riferimento alla Lucania. Poi questo modello è diventato estremamente diffuso e io personalmente sono molto contento di chiacchierare con te oggi, perché io sono un calabrese nato a Lodi e che sono vissuto 18 anni a Reggio Calabria e da 40 sto a Roma. Quindi sono la negazione vivente della purezza etnica, sono il frutto di un meticciato che per me è una ricchezza, ma che mi consente di capire con varie sensibilità, la sensibilità materna, il mondo lombardo, quella paterna, il mondo calabro, e mi fa molto sorridere questa storia, perché anche penso perché, a questa ragioniera, scusami, ma tu la conosci la ragioniera di San Pietro Vernotico? Si chiama Rosa Angela Mauro e la chiamano Rosi, e stava al Cellino, vicino a Cellino San Marco, che è il paese di Albano. Beh, questa non è una condanna, però. No, nel senso che, voglio dire, lei che è una persona che rappresenta, secondo me, in maniera fedele tutte le istanze di chi l'ha eletta e la terza quarta carica dello Stato, adesso viene esposta al pubblico ludibrio. Siamo un po' tutti eccessivi in questo volere mettere sulla forca subito tutti. Facciamo finta di non averlo capito da tanto tempo. Guarda, ha detto una cosa giusta. Ieri ho visto un Twitter di Paolo Aconcia, che è un amico, una pubblica, ha detto: adesso tutti vi scandalizzate perché Rosi Mauro aveva un suo amico personale assunto al Senato, ma guardate ogni altro parlamentare quante amiche personali si porta dietro nel suo codazzo, che sono segretari particolari, portavoce, uffici stampa. In questo caso, come ogni volta, abbiamo un'icona perfetta del ludibrio: i capelli lunghi e scarmigliati, l'aspetto stregonesco, la signora Agee, che però di cui si intuiscono pulsioni e palpitazioni amorose per belli capelli, l'ex poliziotto, sua guardia del corpo e cantante di culi nudi, che ti faccio ascoltare perché ribadire questo concetto mi sembra importante. Tra i destinatari di una somma consistente anche Piero Moscagiuro, poliziotto in aspettativa finito a lavorare con un contratto alla vicepresidenza del Senato. Appassionato di musica, il 36enne ha anche inciso un album, il suo primo lavoro musicale prodotto da Enzo Iacchetti, con cui ha duettato nel singolo Culi Nudi, una sorta di denuncia sociale a tratti impegnata, scritta appositamente per Striscia la Notizia. Ho lo scomposto facile, pensa ciò che vuoi e in un istante lo riceverai. In mare a specchio e di vento spray. Il diploma e la laurea di Pier Mosca, il suo nome d'arte, sarebbero stati comprati. Mentre Beppe Neri riflette su Culi Nudi, che, di cui vi risparmio il ritornello, che ormai è nelle orecchie di tutti, è il motivo, è la hit su YouTube, nessuno lo sapeva che esistesse una canzone, veniva venduta nei banchetti di tutti gli incontri politici della Lega, che avesse per titolo Culi Nudi, ma non c'è nulla di lubrico, nulla di richiamo sessuale, sono quelli scoperti degli italiani colpiti dal governo tecnico. Melog, la realtà condivisa. Io stesso uso questi nuovi media, i social network come Facebook e Twitter, quotidianamente, sempre improntandoli a quello che è l'ambito lavorativo. Quindi sono convinto del fatto che i social network cambieranno anche l'evoluzione della televisione. Di fatto in futuro le televisioni, i media dovranno ritornare ad essere gli interpreti dei valori locali, riavvicinandosi alle culture dei territori, cosa che si è andata persa quando... Siamo veramente un popolo di maramaldi, sta girando ovunque questo video di YouTube dove il Trota parlava dei nuovi media. Naturalmente dice parole di cui non ha mai avuto cognizione, gliele avrà scritte qualcuno del suo entourage, ma ne parlava di fronte a un colto pubblico in una ufficiale manifestazione alla Casa del Cinema di Roma. Allora nessuno trova da obiettare, oggi diventa l'oggetto del ludibrio, dell'irrisione totale. Siamo fatti così, è molto facile salire sugli altari. Una volta che qualcuno è sugli altari, nessuno si accorga di quanto re sia nudo, ma è sufficiente scivolare. La mia non è a difesa del Trota, figuriamoci, assolutamente, ma non posso fare a meno di osservare questo fenomeno. 800240024, mi ero interrotto con l'amico Beppe Neri, che stiamo riflettendo appunto su questa vicenda che ci attraversa, che ci assomiglia, che fa tanto parte di noi. Beppe. No, ma io voglio dire, a parte il fatto che mi hai anticipato, perché mentre ascoltavo dicevo guarda come maramaldeggia Nicoletti, meno male che te lo sei detto da solo, perché citare questo povero disgraziato che così produce un'attività verbale a scarso contenuto semantico mi sembra una cattiveria tremenda. Che non sarà mai il sole, non è l'unico, oggi ci saranno 10.000 oratori che dicono cazzate. No, ma la cosa carina è che alla fine noi siamo un paese veramente unito, perché noi, la nostra generazione, aveva l'idea che i RAS, che erano nati a Musco o a Ceppaloni, potevano applicare il familismo morale, ma non avevamo avuto l'intuizione di capire che ormai è talmente pervasivo il principio che anche chi è nato a Cassano Magnago e fa il perito elettrotecnico con la scuola Radio Elettra di Torino può poi, se arriva a gestire un certo potere, applicare il familismo morale. È omogeneo, è pervasivo, è un elemento unificante della politica di questo nostro povero paese. Quindi siamo noi un po' tardi nel capire quanto fosse parte integrante del modo di far politica nel nostro paese. Ma questo qua, Beppe, tu lo vedi come un aspetto patologico, un aspetto che fa parte del nostro grande meticciato, e do una notizia a coloro che si reputano immuni da questo termine: l'Italia è un paese di meticci, non esiste nessuno che non sia meticcio dalle Alpi alle piramidi, perché è stato attraversato il nostro paese da un'infinità di popolazioni talmente variegata che in ognuno di noi c'è qualcosa di ognuno degli altri rappresentanti abitanti di questo paese. Prego, Peppe. No, il mio problema, almeno il mio problema, la mia riflessione, ci mancherebbe, è che a un certo punto tocca scegliere, cioè se noi continuiamo su questa deriva del familismo morale, basta scegliere, come dicono gli imprenditori, il benchmark. Il nostro benchmark deve essere Baghdad, Alessandria, Tunisi o Algeri. Va benissimo, se coltiviamo ancora l'illusione di avere un punto di riferimento e un ancoraggio a Francoforte e a Londra, dobbiamo avere il coraggio di tagliare certi cordoni ombelicali. È difficilissimo, perché è un processo di autolesionismo sistematico quello, ma se non si cambia questo aspetto fondamentale, avendo un minimo di sistema di regole, staremo nell'onanismo che per vade molte discussioni su questo tipo di argomenti, insomma. Sentiamo qualche ascoltatore. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo chiederle una cosa più che altro. Cioè, secondo me, facendo quattro punti, tutto quello che sta succedendo adesso, che è successo anche prima, a tempi anche di Mani Pulite, tutto il resto, si potrebbe evitare. Il problema è che non vogliono. Cioè, i miei quattro punti sono: legge su corruzione, tutto quello che hanno declassato, rimetterlo, con pene certe, e questo già è un bel deterrente secondo me. La seconda è una legge elettorale dove non vanno dentro chi vogliono loro, ma chi eleggiamo noi, cioè deve essere nominale, perché in questo momento, da quando c'è il Porcellum, secondo me non c'è più democrazia. Però vede Marco, lei cade in un altro delle incomprensioni di cui stiamo parlando. Noi stiamo cercando di astrarci da un discorso puramente tecnico. Lo so, però quello che dico è, se non partiamo da quelli, si arriverà sempre a una conclusione di questo tipo qua. Cioè, del tipo, per capirci, il referendum sui fondi pubblici l'abbiamo fatto. Noi italiani non siamo così scemi. Abbiamo detto, no, non devono più esserci. Loro di notte si sono svegliati, hanno fatto una legge dove non sono più fondi ai partiti, ma sono rimborsi. dove sono aumentate le spese. Lo stanno scrivendo e dicendo tutti, ma sostanzialmente quello che ormai tutti sanno, sembra così facile, quello che dice lei è così elementarmente condiviso da tutti che chiunque io possa fermare per strada e fargli queste domande mi ripeterà queste cose. Abbiamo fatto 2 referendum, avevamo tolto i fondi pubblici ai partiti, dopo Mani Pulite e via dicendo, e oggi ci accorgiamo che i partiti si spartivano fantamiliardi di soldi nostri e ci facevano comunque, da destra, a sinistra, dal centro, bianchi, rossi, gialli, neri, verdi, qualunque colore, perché sta toccando tutti. E non vorrei essere profeta di sventura, ma di solito queste cose, quando cominciano a colpire da qualche parte, rimbalzano ovunque e toccherà ancora di più tutti, quindi nessuno sarà fuori. Questo però ancora una volta ci riporta a quello che stiamo dicendo con Beppe Neri. Perché non si esce mai da questo perverso meccanismo in cui ci sembra che tutti noi abbiamo in tasca la soluzione per risolvere i problemi, ma le cose non cambiano mai. Beppe, come gli esperti da bar, che sono tutti commissari tecnici, qualunque sfaccendato il lunedì mattina che tu puoi ascoltare mentre legge il giornale bevendosi il cappuccino, sembra che se avesse lui in mano le guide del comando della squadra nazionale, sicuramente porterebbe a casa tutti i trofei. Ma voglio dire, è lo sport, nei nostri ospedali, quelli che una volta si chiamavano portantini, oggi sono operatori sociosanitari, può esserci stata anche la terza guerra mondiale, e il lunedì, almeno in questa nostra città, diranno sempre quello che fa Roma o Lazio. Questa è l'unica religione vera, condivisa e praticata da tutti. Chiusa la parentesi, è un problema che riguarda soprattutto i nostri figli. Noi penso che cercheremo di barcamenarci con quello che resta di questa Repubblica bananiera, però il problema è anche capire se abbiamo la possibilità di sperare in un sistema di regole. Al di fuori di questo faremo riflessioni di dotta sociologia, di antropologia culturale, di quello che vogliamo, ma non ne verremo fuori, secondo me. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dirle che lei dice che adesso tutta la gente si scaglia contro il Trotta, contro gli scandali, purificandosi. No, guardi, una cosa, tanto per scherzi, non sto facendo difesa d'ufficio nessuno, osservo che è facilissimo per noi fare come tante tricotese di fronte al palco dove siede il condannato, sempre la morale agli altri, ma fino a 5 minuti prima che questa persona salisse sul palco e sulla visibilità delle sue possibili magagne. È vero, Nicoletti, cioè io, guardi, sì, è vero, non del tutto, perché guardi, io sono militante e quindi il popolo della Lega lo sapeva benissimo che il Trotta, il cerchio magico esisteva, non a caso. Certo, non tutti lo sanno, ma ci sono stati cambi di segreteria dei maroniani e chiaramente adesso si viene sparato dai giornali, sono soprattutto i giornalisti che ci fanno veramente un grande ricamo, giustamente, però si sapeva benissimo, c'era in questo sentore. E poi vorrei aggiungere una cosa, ricollegandomi al primo intervento di Brescia, anche Belsito è calabrese. Quindi io voglio aggiungere anche questa cosa. Ma lei è convinto adesso, onestamente, che ci siano delle influenze negative perché portano un sangue meridionale nella purezza del sangue padano? O pensa che guardi, queste sono se chiaramente... Lei così mi fa fare la figura del... No, ma lei dica quello che... No, lei non deve fare. No, certo, dico quello che penso. Però che ci siano due società diverse, è il sud e il nord, e figuriamoci, ma che mica voglio negare questo. Dicono che non è bello dirlo, però caspita, è così. E il tesoriere calabrese, Rosi Mauro, non dimentichiamoci che la moglie di Bossi è del sud, che comprarsi la laurea è proprio una cosa da dottore, tutti dottori. Sì, ma se la compra il figlio di Bossi, scusi, ma dov'è l'influenza negativa sudista? Io l'ho detto che è mezzo sangue. Ma allora scusi, ma parla come Harry Potter, scusi, alla scuola di magia, la mezzo sangue è quella che è il papà mezzo mago e la mamma non maga. Sono cose che... Guardi, sono sgradevole, lo so. No, ma lei però... dice quello che pensa, veramente. Ci fosse, diciamo, una lega soltanto di persone del nord, non sarebbe successo questo. È sempre un punto di vista suo, non glielo voglio contestare, non ho elementi oggettivi. Mi fa un po' sorridere la cosa, ma mi fa un po' sorridere perché l'impressione è che quando la marmellata è nel barattolo a portata di mano, le dita ce le infilano un po' tutti. Questa è un po' la mia impressione, ma potrò anche sbagliarmi. Melog, la realtà condivisa. Ho 800 24 0024, quello che trovo interessante, singolare, per me sempre sorprendente, che in questo programma poi emergono, sentire che esistono, che è inutile fare finta che non ci siano, è inutile darne la versione edulcorata, la versione corretta, la versione ad uso dei mezzi di comunicazione di massa. In realtà viene fuori, avete sentito, il militare intelleghista poco fa è sinceramente convinto e lo dice premettendo il fatto, certo se lo dico faccio la figura del coglione, ma lo dico perché lo penso, che se ci fosse in realtà una entità etnicamente incontaminata, fatta soltanto di purissimo sangue del nord, non sarebbero accadute le cose che sono accadute. E trova, come trovavano naturalmente, non voglio farmi bello con posizioni politicamente correttissime, come trovavano tutti i teorici della segregazione, dello sterminio, della differenza razziale, delle caratteristiche fisiologiche, genetiche legate ad alcune persone. Se noi purificassimo il sangue avremmo finalmente la classe politica, la classe etica che salverebbe da tutto. Beppe Neri, cosa ne dici? Ma io guardo i fatti e i fatti sono che io riflettevo su un chirurgo maxillofacciale laureato con 110 lode bergamasco che si chiama Roberto Calderoli, su un avvocato torinese che si chiama Mario Borghezio e su un altro avvocato che era responsabile dell'ufficio legale di Cassamarca di Vittorio Veneto che si chiama Giancarlo Gentilini, che non penso abbiano un sangue misto, penso siano probabilmente puri e duri del nord. Allora l'immagine che hanno dato della loro collocazione nell'agone politico italiano probabilmente, non so, vista dal New York Times o dalla Süddeutsche Zeitung, non ci pone proprio ai vertici adesso mi serve proprio un tuo parere tecnico dato dalla tua professione. Ora mi spieghi perché questo tipo di letture, che in realtà sono così facilmente smentibili che nemmeno mi prendo la briga di fare l'indignato, di dire non vi vergognate, lasciali dire, per questo pensano, cosa fanno? Rassicurano molto. A noi ci rassicura come popolazione, come gruppo o anche individualmente il fatto che se noi abbiamo una purezza etnico-razziale possiamo comunque sentirci preservati da pericoli, da limiti, da scivolate. Perché ancora l'umanità, dopo tutto quello che è storicamente passato, non riesce a fare questo passo evolutivo nel considerare gli uomini tutti possibilmente fattibili di scivolate etiche, morali, psicologiche, anatomosessuali e via dicendo? Ma perché fondamentalmente noi abbiamo ancora un retaggio che è quello per cui il diverso, il non omologato, il non confacente agli standard che possono essere culturali o che va messo alla porta, se è matto va messo nell'ospedale psichiatrico o ancora prima nei luoghi di esclusione, se è diverso da noi va messo nelle condizioni di non interferire. Questo ci rassicura, ci protegge dal rischio di confrontarci con i nostri limiti, con i nostri errori e con la possibilità di individuarli e riconoscerli come frutto di nostre scelte. È molto più rassicurante un modello di purezza assoluta e di rigoroso rispetto di regole anche di purezza di sangue. Lo sai cosa? Oggi la differenza rispetto a quello che poteva accadere nelle grandi guerre etniche, nei grandi stermini, in quanto questo pensiero poteva essere impugnato tranquillamente e difeso con la forza delle armi, è che oggi c'è la lettura paracula, quella che si fa agli altri, e c'è una sorta di religione segreta, esoterica, nascosta, a cui tutti continuano a pensare esattamente questo, però hanno capito che forse non conviene poi dirlo tanto all'esterno, che lo trovo anche molto più pericoloso. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, buona giornata. Le dico che io sono stupito non tanto da quello che sta succedendo, ma qui ci sono ancora delle persone che credono che i bambini nascono e vengono portati dalle cicogne. Cioè, mi spiego, ci sono ancora tante persone che credono che vengano tolti i soldi ai partiti, in questo caso la Lega, senza che ci sia il consenso da parte dei vertici. Questa è la cosa per me ancora più aberrante. Io non voglio colpevolizzare assolutamente nessuno, però come si possono portare fuori dei soldi senza che in questo caso Bossi non lo sapesse? È un partito che mi permetta il termine, dittatoriale, viene gestito in maniera monocratica, e però tutto ad un tratto il segretario del partito che ha fondato, che ha diretto per più di 20 anni, non si accorge che sono uscite le denari. Beh, questo un pochino accade quando un capo mantiene il suo ruolo di capo al di là della sua totale capacità di gestire, soltanto perché ha un'investitura carismatica, come i vecchi sovrani rincoglioniti, e come fa parte della letteratura proprio. E quando mantieni un capo solo che un capo perché è un grande vecchio, però c'è anche da dire che la scappatoia del non sapevo, non mi sono accorto, ma io non sapevo niente. Tutti cadono dalle nuvole, onestamente non è solo Boss cadere dalle nuvole, ho visto cadere le nuvole negli ultimi 2 anni parecchie persone quando sono state a rispondere di alcune gestioni un po' allegre del denaro pubblico. Giovanni. Giovanni, sì, spenga la radio perché sennò c'è il mio ectoplasma che mi segue come eco. Sì, senz'altro. Ma io volevo riallacciarmi al suo incipit, nel quale lei parlava di elmi cornuti, ampolle, miti celtici, c'è tutta questa simbologia posticcia. Ma poi ognuno può divertirsi come vuole, guardi. Sì, certo, no, però dicevo, tutta questa simbologia che comunque veniva propinata in televisione sembrava quasi una cosa seria, al punto che pateticamente la cosiddetta base leghista appunto si rifaceva a queste io la definisco un termine, pagliacciata, non ne viene un altro migliore, con la mano sul petto mentre cantava le strofe di Va Pensiero. Tutto ciò mi faceva riflettere. Beh, sono strumenti di gestione molto potenti del consenso di massa, questo tipo di liturgia. Dicevo appunto tempo fa, vidi un film in televisione che si intitola appunto L'Onda, io non so se lo conosci, ci vorrebbe Sansonna magari. In questo film c'è un insegnante che è un liceo, credo americano, sinceramente non, sì, in America, per spiegare agli studenti il concetto di autoritarismo, praticamente in questa sorta di esperimento sociologico finisca proprio con l'introduzione anche di questa gestualità, di questi simboli, eccetera. Finisca poi per creare una sorta di mostro in brevissimo tempo, cioè questo gruppo che si crea, cioè un gruppo con questa identità scellerata e appunto con relativa artificiosa simbologia, e di fatto poi alla fine sfugge di mano l'insegnante stesso e naturalmente poi... Ma la storia ce lo insegna, il Valhalla nibelungico ha provocato cose ben più serie, potremmo inventarci qualsiasi tipo di fantastico e mitologico mondo lontano, c'è sempre qualcuno disposto a identificarci, sì, e a sentirsi coeso da quell'idea inesistente. Grazie Beppe Neri, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.